c'è un lavoro, una trasformazione che hai fatto in tutto questo periodo qui che è grossa. Io non ero in tutta una serie di cose, oggi siamo qui, beh, ma ora non si dà, purtroppo teniamo così. Caigno, Angushu, quelli come Geco. Però, quindi, probabilmente rifacendomi a quello che diceva Mauro una volta, che è vero, vale la pena di partire da ciò che c'è già, perché se cominciamo a pensare a delle strutture siamo rovinati, cioè ci perdiamo nel sogno di fare, però... Sì, che possiamo già fare delle cose. Possiamo già fare. Adesso stiamo facendo, in questo momento stiamo facendo. Cioè, non è così complicato. E io andrei avanti su questo, perché per me il senso di una, di un'evoluzione personale è quella di comprendere meglio se stessi. Io mi posso capire se mi capisce, se parlo con lui, se lui mi capisce, perché se lui non mi capisce farneticamente gli parlo. Ecco, quindi il tema dell'aiuto reciproco, io lo trovo qualcosa che è una tappa che non si può saltare, cioè è come dire, no, è come sulle scale, le scale pianoforte, non puoi non saperle fare. Chiaro che non sono fine ultimo, però sono un passaggio che direi abbastanza indispensabile. Ho l'impressione che alcune persone finiscano saltando questo passaggio direttamente in altri luoghi, per esempio persone che fanno yoga, che ho visto che credono di aver ottenuto delle robe, ma spesso non è vero, anche nel buddismo questo. Sì, che cosa succede? Che bypassano il livello che è quello della relazione, per cui poi credono aver avuto delle ispirazioni, ma lo vedi nella vita quotidiana che non è vero. Cioè, si arrabbiano, si irritano, peggio degli altri, ecco. E poi sono meno umili, sono... Quindi, allora, per come la vedo io, siccome io posso dire le cose che conosco, poi più in là mi devo affidare alle parole degli altri. Quello che vedo oggi è che sicuramente questo è un terreno che a me è utile, perché quello che mi servirebbe a me è avere intorno persone empatiche, cioè che capiscono sul serio cosa mi succede dentro. Se lo capiscono, sto meglio, da quando? Da subito. E ho l'impressione che come funziona io funzionano quasi tutti. Per cui lo sviluppo dell'empatia è qualcosa di importante. Ad esempio, faccio l'esempio. Se io vado a parlare con uno psicoterapeuta di cose di cui stiamo parlando adesso, lui mi diagnostica subito una certa situazione, mi prescrive determinati compiti oppure mi dà delle medicine, cioè... Ecco, nel senso che ti inquadra già dentro un contesto, perché la psicoterapia è un mito, cioè il mito di ogni poi scuola di psicoterapia, cioè i suoi miti, per esempio la scuola della Gestalt, il mito che se tu non diventi prepotente nella vita quasi, allora vuol dire che sei un compiacente, per cui finché non ti vedono che sei diventato bello aggressivo, non ti considerano reale. Adesso sto esagerando, ecco, però in altri casi invece è il contrario, finché non ti vedono che sei del tutto remissivo, che sei sempre tranquillo, allora capiscono. Ora, non è così, né una cosa né l'altra. Quindi mi sembra che quello che si potrebbe fare è intanto cominciare a aiutare noi tre, cioè a capirci di più, perché siccome di casini ce l'abbiamo tutti e tre, già tre mondi, io partirei da questo. Mi sembra un punto di partenza, perché... Visto che il rischio di una cosa del genere, io lo dichiaro a tutti che non ci vediamo per altri 15 anni, viste le nostre età, voglio dire, bisogna ci vediamo anche nel pomeriggio. Accetto la sfida. Io sono convinto che sì. Invece parlando con voi mi serve molto. Cosa che non mi serve se vado dal terapeuta, a me non mi serve più. Ecco. Invece parlare con voi sono sicuro che mi può servire. Ecco. E allora già questo lo vedrei come un punto. Non da poco, ecco, per cui poi sì. Io vorrei, è ovvio che se voglio capire te devo capire qualcosa di più dell'alchimia, se no a un certo punto c'ho dei fermi, non, e quindi cercherò di farmela spiegare da te, insomma, e come nel caso tuo sì. Del buddismo devo capire un po' di più, anche se lì è un po' più facile, lì non so nulla, quindi mi è più difficile. Ma questo credo che potrebbe essere un punto di partenza. Sono poi alla fine della fiera, non distanti. Cioè, una cosa che ci siamo detti un po' di sera fa con Mauro, ma è ovvia, ma la ribadisco tanto per la montagna, è unica, le vie d'accesso sono il fatto che più sali e più cominci ad avere la stessa visione finalmente. E quindi puoi raggiungere un altro più facile, perché il cono è minore, per cui basta un piccolo passo. Esatto. Alla base, ci vuole, sì. Certo, è proprio e adesso questo. Non dico che siamo in cima, siamo un po' più in sì. Meno, un pelo di più lo vediamo. Sì, sì. Insomma, esatto. Quello che io parlo sempre un po' della mia esperienza, sì, perché certo. Cioè, parliamo di quella, cioè, e no, anche di come viviamo le cose, sì. Io ho sto trip. Certo. No, ma è la stessa cosa in realtà, questa mente duale, no? Che è questa che ci frega in realtà, vediamo sempre le cose separate. Guarda, sulla dualità abbiamo fatto un bel lavoro che poi ti restituiamo ultimamente, sì. L'abbiamo fatta fuori. Ah, siete già nel tutto e uno, perfetto. È stato un bel lavoro. È stato un bel passaggio. Prego. Sì. No, che per esempio anche questa cosa si sta ribaltando anche nella mia attività lì a Pomai, eccetera. Perché prima, per farvi l'esempio della scuola, che è esattamente quello che è successo in me, prima c'era la psicologia e poi il Dharma, no? Adesso è esattamente il contrario. Per me è come dire il sentiero spirituale, che io chiamo Dharma, ma sì, sono... sì. Per me è la base di tutto, mentre la psicologia, devo dirvi, forse sono tanti anni dentro. E allora la domanda che è molto stimolante è: ma oggi cosa serve? Facciamo stare un attimo noi, no? Questa domanda è importante. Oggi cosa è utile? Cosa serve? Io la risposta che mi sto dando è, per ora è un mix di cose, nel senso che per me, cioè, il buddismo, e c'è comunque un modo di portarlo che sia più psicologico, tra virgolette, cioè un linguaggio e una modalità accessibile. Però la base è questa, cioè per me la base è questa, sì, certo. Cioè la strada che io vedo, che ha veramente tante analogie anche veramente con altri approcci, eccetera. Sì, certo. Mantenendolo però, perché lì c'è, come, non che sia perfetto, ma insomma c'è tantissimo. Allora io credo che la gente oggi abbia bisogno di questo, più che fare la psicoterapia. Sì, anch'io sono sicuramente di questo. E infatti chiamiamolo l'area traspersonale, non so, ma sì, proprio oltre, nel senso una riscoperta nostra di questo, sì, che ci aiuti, perché questo è indispensabile. Sì. Questo è indispensabile. Se no è vero, perché il rischio può essere che noi continuiamo a girare in quel mestolame lì, capito? In cui il problema più grosso è che lui mi ha guardato male, quello mi ha lasciato, questo. Io c'è una nausea di ste robe, sì, veramente, no, ogni beh, tanto. Certo. Capisco che sono dei problemi, però... Sì, però sono tutti problemi che, come tu stai dicendo giustamente, sono centrati sull'io. E certo. E solo sì, lì, cioè, se tu riesci certo per un attimo a togliere l'io, infatti se potessimo far fumare una canna ogni tanto qualcheduno, gli diresti allora tutti i problemi, no, ma in effetti li vedi. Sì, sì. C'era Gurdjieff che aveva trovato delle sostanze che riuscivano a portare le persone o tutte nell'io o tutte fuori dall'io, e quindi le agiva sulla stessa ecco, persona. E lì però capisci che noi dobbiamo vederci veramente con molta onestà dove siamo noi, perché sì, tu puoi portare una persona fuori dall'io se ci sei, ma se non ci sei non porti fuori nessuno, da nessuna parte. Sicuro. Allora noi abbiamo agito fino a diversi anni fa, posso sì, mettere sì, te dentro, assolutamente, giustamente, rispetto alla nostra qualità che potevamo dare nell'area assolutamente di io, della biografia umana, sì, assolutamente sì, cosa di cui non mi pento assolutamente. Ora però stanno succedendo due cose. Una è, secondo me, sta succedendo anche sì, in te, che c'è questa apertura, no? Del sì, cammino, se sì, dire, no? Quindi in questo senso, che sta prendendo sempre più spazio, perché parlando con te mi accorgo sì, di quello che tu mi dici. Come dire, questa vocazione, chiamiamola transpersonale, sì, sta diventando più forte, sia in me, lui, sì, credo in te, non lo so, ci siamo confrontati poco in questo, ma con lui ne sono più che sicuro. Questo sta cambiando, e forse adesso è il momento in cui la gente ha forse più bisogno, senza fare bypass sicuramente, no, ma forse un minimo di apertura su questo livello è importantissimo che si riesca a fare, perché il tempo si sta accorciando e l'oscurità della materia avanza ed è sempre più difficile aprire questi varchi nelle persone. Sempre più difficile. Però credo che valga la pena, perché è l'unica strada che io vedo possibile. E devi farla con un mix, non so come dire. Però per me sicuramente va di pari passo con quanto io sento, realizzo, sto, con quale mia esperienza. Sì, con le emozioni che noi proviamo. Sì. Cioè, in pratica io mi devo rendere conto di quante volte uso la mente che fa confronti, che mette giudizi e che quindi esce dalla compassione, e ogni volta che fai questo crei oscurità, crei ombra. Ora, uscire da questo con un colpo solo è difficile. Ci vuole una progressiva presa di consapevolezza e un esercizio, come si impara a intonarsi. Poi insomma, ci sono persone che tu vai a incontri questo maestro nella tua vita, non dice un cazzo e tu cambi. Ma non è che non fa niente, lui è. Sì. Allora, questo è il livello su cui noi dobbiamo andare. Essere sì, sente. La doppia radice della vita. Allora quel tipo di esperienza che noi dobbiamo catturare, sì. Perché se finché io non dico, magari in questa vita non lo so, ma insomma la strada è questa, io sono più che convinto, però poi cosa succede? No, questa civiltà sappiamo benissimo, no? Tutte le distrazioni, le cose, cioè questa è la difficoltà con cui noi dobbiamo combattere. Infatti questa è la ricerca di quelli che io chiamo luoghi originali, cioè o originali, se dovessi dirla in ebraico, makor, nel senso dove la luce originale ancora splende e la luce originale ha un vantaggio che si allinea immediatamente con la tua luce interiore, usando la metafora della luce, per cui tu arrivi in certi posti e se sei minimamente, ma molto poco ricettivo, senti che la terra lì con te ha un rapporto che qua non puoi sentire. Cioè noi il rapporto con la terra ce l'abbiamo sempre, che non riusciamo a sentire. Li cominci a sentire lì, dice vabbè aspetta, cerco di portarlo di qua perché per l'amor di Dio dovrei sentirlo anche qua, ma intanto che non c'è vado ogni tanto a risciacquare, ripaninarlo. Sì, sì, no, questo è lì. Questo noi abbiamo perso con per te la montagna, per non sei sulla cima della montagna, per te fa figlio mio, Burghi.